Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccoci finalmente insieme. State bene? Volete provare a stare meglio? Donate sangue, regalare qualcosa di prezioso, insostituibile, è un'occasione rivitalizzante in tutti i sensi. Se siete donatori, chiamatemi e aiutatemi oggi a condurre questa puntata. Regalatemi la vostra esperienza, mettetela a disposizione di chi ancora non si sente pronto per fare un piccolo gesto che può dare la vita. Un gesto che, ve lo ricordate, c'era uno slogan di una fortunata campagna che diceva: fa grande chi lo dona e aiuta chi lo riceve, un po' come il sorriso. La maggior parte di noi può diventare donatore e la maggior parte di noi, almeno una volta nella vita, potrebbe avere bisogno di sangue. 800 24 0024, il nostro numero verde è a vostra disposizione. Manca del sangue, rispondete, qui il rosso del pronto soccorso, una metro. Eccola! Fatemi sapere quanto sangue c'è disponibile. Ha perso sangue? Non molto. Emorragia di lieve entità. Dategli 6 unità di zero negativo. Avvertite la sala operatoria che stiamo arrivando per una laparotomia. Oggi in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuliano Grazzini, direttore del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore, grazie e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avere anche quest'anno fatto questa trasmissione. Professore, il sangue è il farmaco salvavita per eccellenza, il fabbisogno è in costante crescita, una crescita legata all'aumento degli interventi, dei servizi che utilizzano sangue e plasma, ad esempio i trapianti, la traumatologia, ma anche l'oncologia. Noi ci stiamo avvicinando alle vacanze, ricordiamo che il bisogno di sangue non va in ferie. Professore, potremmo quindi partire per questa puntata dicendo: estate, è tempo di donare? Assolutamente sì, senza ombra di dubbio. Naturalmente è tempo di donare sangue tutto l'anno, non soltanto di estate, ma d'estate è estremamente importante che coloro che sono donatori e coloro che non lo sono ancora e lo possono diventare si mobilitino per tenere le scorte degli ospedali a dei livelli sufficienti per poter affrontare tutte le necessità dei nostri pazienti. Lei ha detto molto bene in esordio che si può diventare donatori di sangue. Oggi noi abbiamo un 4-5% della nostra popolazione italiana che è donatori di sangue, ma sicuramente questa percentuale potrebbe essere molto molto superiore. Abbiamo comunque 1.700.000 donatori di sangue in Italia grazie alle associazioni e federazioni dei donatori di sangue che sono AVIS, FIDAS, Frates, Croce Rossa ed altre, che fanno più di 3.300.000 donazioni di sangue all'anno. Sono grandi numeri, perché ogni giorno in Italia sono necessari quasi 9.000 componenti del sangue, dico ogni giorno, quindi parliamo di diversi milioni all'anno che strutturano la necessità clinica dei nostri malati. Professore, l'importante è iniziare, questo è il punto. D'altronde ci vuole più coraggio a trovare una scusa che a donare sangue, come recita il claim della campagna FIDAS. E professore, a proposito di coraggio e di resistenze, il Centro Nazionale Sangue insieme a Observa ha realizzato qualche anno fa un'indagine sugli atteggiamenti verso la donazione e le principali resistenze a donare sangue, da cui è emerso che nonostante ci sia una diffusa consapevolezza sull'importanza del tema e del problema, pregiudizi, paure, timori resistono. La pigrizia, le resistenze di carattere emotivo come la paura del sangue e dell'ago e lo scetticismo verso istituzioni e personale sanitario sono i principali freni alla donazione. Fra le motivazioni più rilevanti che potrebbero portare i pigri a donare vi è la possibilità di farlo sul luogo di lavoro o studio e una maggiore rapidità ed efficienza delle visite sanitarie prima della donazione. La scarsa competenza percepita di medici e infermieri e l'inadeguatezza e l'igiene insufficiente delle strutture sanitarie sono le motivazioni principali che frenano gli scettici. Per l'81% del campione non vi sono rischi nel donare sangue, ma non è da trascurare che quasi un italiano su due ritiene rischioso ricevere una trasfusione. In questo caso a preoccupare sono soprattutto la provenienza del sangue e la mancata sicurezza delle strutture sanitarie. Professor Grazzini, parleremo anche delle resistenze emotive, lo faremo insieme alla dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni, che è già in linea con noi. Dottoressa Torti, buongiorno. Buongiorno a voi. Arriviamo subito, perché prima vorrei, insieme al professor Grazzini, tornare su un dato. Un italiano su due ritiene rischioso ricevere una donazione. Professore. Ma dunque questo è un dato che fa molto riferimento ad una percezione che si struttura, lasciatemi dire, molto, perché i media creano dei condizionamenti che non sono positivi. L'informazione che i media passano a volte, cioè o meglio non sempre, è una informazione corretta e chiara, e spesso vengono passati messaggi abbastanza confondenti. Ad esempio, si parla di rischio di malattie contratte con il sangue in generale, senza distinguere in modo chiaro a livello informativo fra il sangue che si utilizza ad uso trasfusionale clinico, quelle 9.000, 10.000 unità che sono necessarie tutti i giorni, di cui dicevamo prima, sì. non si distingue questo da alcuni farmaci derivati dal plasma, cioè quelli che vengono prodotti con il plasma, che in passato, non più negli ultimi 15 anni, effettivamente hanno causato molte malattie in tanti pazienti, anche molto gravi. E si tende molto a rispolverare questi problemi del passato, direi, mi passi l'osservazione, lei che è una giornalista, molto per fare un po' di scoop, ecco, in qualche misura. Quindi è molto importante invece precisare che in nessun trattamento sanitario esiste un rischio zero. Nessuno sa quanto può essere dannoso anche la semplice assunzione dell'aspirinetta d'uso preventivo. L'aspirinetta d'uso preventivo causa una serie di danni che sono, e anche di lesioni gravi, che vengono in qualche modo anche descritte in letteratura. Sì. E quindi, come tutti i trattamenti terapeutici e sanitari, la trasfusione non potrà mai avere un rischio zero. Però dobbiamo anche dire che la trasfusione del sangue non è mai stata sicura come oggi. Il rischio residuo di contrarre le brutte malattie infettive, che sono l'epatite B, l'epatite C e ancor peggio l'AIDS, oggi è diventato bassissimo. Negli ultimi 10 anni almeno non abbiamo registrato nessuna trasmissione di questi virus con la trasfusione clinica, e in questi ultimi 5 anni, da quando il Centro Nazionale Sangue è nato, esercitiamo un lavoro assiduissimo di sorveglianza sulla trasmissione di queste malattie. Abbiamo dati aggiornatissimi, continui, che ci indicano che i nostri donatori sono donatori sicuri e che la sicurezza molto elevata della trasfusione di oggi si conferma. Quindi non abbiamo soltanto delle percezioni, abbiamo dei dati scientifici che ci dicono questo. La trasfusione può avere ancora qualche rischio, può comportare dei rischi anche gravi, molto rari, per lo più legati ad esempio all'errore umano che si può verificare a livello del reparto di cura, dove ad esempio una trasfusione di sangue viene trasfusa ad un paziente che non è quello destinatario, per cui noi sappiamo che la trasfusione del sangue è come un piccolo trapianto, dove è necessario rispettare una compatibilità immunologica. Quindi se noi trasfondiamo un'unità di sangue ad un paziente che non è il destinatario, possiamo causare un danno gravissimo, al limite raramente anche la morte. Quindi sono questi i danni, molto più legati, se vogliamo oggi, all'errore umano che non alla sicurezza. Grazie professor Grazzini, e un grazie arriva anche da molti ascoltatori, donatori che ci stanno scrivendo all'800 24 00 24, che la ringraziano per la risposta così puntuale. E io invece adesso parlerei dei limiti che noi ci diamo, delle nostre paure, come ad esempio la nostra pigrizia, che ci trattengono dal diventare donatori. Dottoressa Torti, sulla pigrizia mi sa che possiamo fare poco, oppure? Beh, allora, io direi che sono due i fattori che riguardano la pigrizia. Uno un po' più di temperamento, quindi riguarda più la personalità. È un'esperienza comune, no? Vedere persone più solidali, naturalmente solidali, quindi più disponibili a fare questo tipo di azioni. Però d'altra parte c'è anche un altro fattore molto importante, che è la motivazione. Per cui chiaramente se io ho un fratello che ha bisogno, sarò più predisposto a fare una donazione di sangue. In questo caso noi possiamo un pochino calarci nella mente di chi ha davvero bisogno, entra nella logica del do ut des, quindi oggi magari tocca a me. Esatto, e domani toccherà a te. Quindi da questo punto di vista la pigrizia va proprio superata in questi termini. Per quanto riguarda la paura del lago, da che cosa nasce? Come si può superare, dottoressa? Allora, la paura del lago io la potrei far rientrare tra quelle paure, diciamo così, più antiche dell'uomo. Pensiamo alla paura del sangue, sì, che poi è collegata, pensiamo alla paura dei terremoti e alla paura degli animali pericolosi. Perché? Perché noi ovviamente ci proteggiamo da tutto ciò che può ledere la nostra incolumità. Quindi chiaramente la paura del lago è legata alla percezione del dolore. Noi teniamo conto che a livello cerebrale proprio abbiamo degli organi deputati alla percezione di questi dolori, tra cui appunto uno piccolino che si chiama insula, che vuol dire isola. Immaginiamocela divisa in due sezioni, una anteriore e una posteriore. Ecco, quella anteriore è quella che è deputata alla percezione del dolore, quindi in maniera quasi automatica noi ci difendiamo da questa paura. È chiaro che ci sono poi tutti dei percorsi da effettuare per superare questa paura, perché è superabile, perché effettivamente se noi pensiamo alla dimensione di un ago, poco ci può fare in realtà, eppure la nostra mente lo percepisce come stimolo doloroso, tanto doloroso da evitarlo a volte. E allora che cosa possiamo fare, dottoressa Torti? In questo caso, ago e sangue, due, esatto, paure che allontanano, a cui aggiungerei, legata al sangue, anche la paura di svenire. Certamente. Perché sembra, no, facciamo una specie di circolo vizioso, iniziamo, certamente, dalla paura dell'ago e poi finiamo con oddio svengo. Di solito infatti la paura dell'ago e la paura del sangue vanno proprio di pari passo, un esempio tipico delle persone che si rifiutano addirittura di fare gli esami del sangue, quindi arriviamo a cose abbastanza gravi. Però appunto, perché anche qui teniamo conto che si attivano due tipi di emozioni quando abbiamo a che fare con un ago o addirittura la vista semplicemente del sangue: la paura e il disgusto. Quindi da un lato la paura, che è rilevata da un'altra area cerebrale che si chiama amigdala, in questo, sì, caso vuol dire mandorla, ci fa attivare fisiologicamente, quindi aumenta il battito cardiaco, sudiamo, tremiamo. Dall'altra parte però c'è anche una reazione opposta, quindi io tanto mi attivo, prima fase, quanto poi mi devo arrestare, sì, e quindi seconda fase, si parla di reazione vasovagale bifasica infatti, perché è una reazione che ci permette di salvarci in realtà. Se noi pensiamo allo svenimento come un fattore di protezione, nel senso che in posizione orizzontale il cervello è l'organo che riceve maggior ossigenazione. Sappiamo che nel cervello ci sono i neuroni, che sono le cellule più importanti del nostro organismo, e quindi diciamo che noi sveniamo proprio per proteggerci. Sì. Ecco perché poi in realtà alcune persone effettivamente svengono. Come si può fare? Attualmente la ricerca ci dice che invece di applicare delle fasi di rilassamento, come avviene per tutti gli altri disturbi d'ansia, in questo caso si fa la cosa contraria. Quindi ci sono delle sessioni di tensione applicata. Praticamente cosa vuol dire? Che io poco prima, anche per esempio di fare un esame del sangue, posso convogliare delle tensioni nei muscoli, sì, in questo caso ovviamente combatterò quello che è poi l'arresto e quindi lo svenimento. Quindi basta stringere i pugni? Sì, basta stringere i pugni, poi ce ne sono diversi di esercizi, per esempio anche contrarre i muscoli delle gambe, sì, oppure semplicemente la mandibola o corrugare la fronte. Quindi sono tutti esercizi che in qualche modo ci tengono attivi. Dottoressa, aiutiamo Salvo che ci scrive: che cosa mi consigliate per distrarmi durante la donazione? Una volta mi sono portato un libro, ma me lo hanno sconsigliato vivamente. Allora, più che libri, quindi materiale verbale, io consiglierei al nostro amico di immaginare delle scene molto più rilassanti e quindi di creare un'immagine di un posto sicuro, molto personale, che riesca poi a farlo in realtà rilassare al momento proprio dell'atto. Visualizzate, professor Grassini, d'accordo? Assolutamente sì, anzi mi complimento, la dottoressa Torti ha dato un'immagine e una interpretazione estremamente chiara ed estremamente appropriata di questa della percezione, no, che il soggetto che ha delle resistenze ha nei confronti di due percezioni importanti, dell'invasività del lago da una parte e della sottrazione di qualcosa di proprio dall'altra che consiste nel prelievo. Vorrei aggiungere anche che nei servizi trasfusionali è molto utilizzato, no, un sistema di distrazione del donatore, cioè il personale che sì. sanitario che sta in sala prelievi, a volte anche i volontari aiutano in questo, cercano di distrarre il donatore, di parlare, di in qualche modo di deviare l'attenzione del donatore dal pensiero di resistenza o di dolore o di invasività o di sottrazione verso invece qualcosa di comune, parlando del più e del meno oppure commentando, sì. perché spesso abbiamo televisori in sala prelievi, quindi commentando la notizia di quel momento che in quel momento passa in televisione, quindi questo è molto importante, come dire, il sistema di intrattenimento, ecco, dei donatori, a noi crediamo che sia anche questo abbastanza efficace. Voglio dare la linea ad Antonio da Brescia e subito dopo a Francesco da Milano. Antonio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Io è da 20 anni che sono donatore Avis. Sì. 19 anni non sapevo cosa fare come volontariato, ho detto va bene, vado a donare il sangue, ho cominciato a donare il sangue, solo che fino al 2001 sono sempre stato donatore, nel 2001 invece ho fatto un mega incidente sì. e ho avuto bisogno io di sangue. È stata un'esperienza vedermi da una parte, quando sono sul lettino che dono il sangue, ho compreso ancora di più l'importanza che faccio quando vado a donare il sangue. Grazie, poi, Antonio. Donare il sangue, due cose ancora, donare il sangue, facciamo due donazioni in 6 mesi, si fanno anche il tagliando perché ti fanno le analisi complete, dopo la donazione si offre una colazione mega galattica, quello. Tutto in compagnia, arrivederci. Grazie Antonio, 800 24 00 24, Francesco da Milano, buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io a differenza dell'ascoltatore di prima, ho iniziato 23 anni, sono 10 anni che sono donatore al Policlinico di Milano sì. e diciamo ho iniziato più che altro perché avevo uno stile di vita non proprio regolare e non mi sentivo bene. Mi sono avvicinato quindi al fatto di dovermi, alle visite mediche, al fatto di dovermi curare, volevo capire se stessi bene o meno, quindi sono andato al Policlinico di Milano, mi hanno fatto, ma tu devi fare un prelievo, poi ho unito questa cosa, ho detto, ma già che prelievo, ma se faccio una donazione, già il fatto appunto di poter fare del bene nel caso verso altre persone, potrei anche avere, ho comunque delle visite e quello che prima l'ascoltatore chiamava il tagliando. Periodico, esatto. Quindi, ritorna questa parola anche in molti messaggi che mi stanno arrivando, il tagliando del donatore. Ma e in effetti adesso io comunque sono 10 anni, poi la prima visita è andata benissimo, nel senso che mi hanno anche fatto i complimenti per il sangue che avevo, che ero perfetto. Bella soddisfazione quindi, Francesco. Mi sono preso molto bene, ho cominciato poi a dare la mia disponibilità per qualsiasi cosa potessi donare e quindi sono anche nelle liste delle piastrine. Ecco, Francesco, chiediamo al professor Grazzini, quando noi diciamo sangue, che cosa si dona del sangue? Si può donare il sangue ma anche... Noi possiamo donare il sangue intero, il quale naturalmente non viene utilizzato come tale, ma viene scomposto, frazionato nei suoi elementi fondamentali che sono basalmente i globuli rossi, le piastrine e il plasma. I globuli rossi per correggere le anemie, quindi la carenza di globuli rossi o dell'emoglobina in particolare, che è la sostanza che trasporta l'ossigeno nel sangue, quindi senza emoglobina i nostri tessuti non respirano e quando si arriva a un livello critico l'emoglobina va aggiunta, va quindi data in forma sostitutiva. Le piastrine per le malattie e per i disturbi coagulativi legate alle piastrine, il plasma in situazioni meno frequenti ma molto importanti in cui c'è una complessiva carenza delle proteine che fanno coagulare il sangue, quindi sono questi 3 gli elementi, però si può donare non soltanto il sangue intero ma anche separatamente le piastrine, separatamente il plasma e sempre con questa tecnica molto semplice e sicura che si chiama aferesi si possono donare anche in forma mirata uno, due o tre degli elementi, o due insieme, o addirittura anche tre insieme, già pronti, separati alla fine della donazione. È una donazione molto moderna, in Italia si sta prendendo sempre più campo, sia per la produzione del plasma, ma in particolare per la produzione di piastrine, perché le piastrine di una donazione di sangue intero sono troppo poche per curare un adulto, e parlando dell'adulto in particolare, e per avere una dose adulto ci vogliono almeno le piastrine di 4-5 donazioni di sangue intero. Facendo una donazione di piastrine selettiva in aferesi possiamo avere una dose terapeutica di adulto con una sola donazione, ovviamente senza causare alcun danno al donatore. Daniele, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Proprio rimanendo in argomento piastrine, io alcuni anni fa, ahimè, per una leucemia di mia madre, che poi ringraziando di andare in remissione, ho scoperto appunto che esisteva la possibilità di donare le piastrine, sì. E la cosa che volevo segnalare, io da allora sono diventato un donatore assiduo e ho scoperto che non tutti possono diventare donatori di piastrine, ci sono molte più difficoltà per diventare donatori collegati al meccanismo tramite cui avviene la piastrinoferesi. Sì. E quello che volevo sottolineare è che mentre per il sangue appunto c'è una costante pubblicità, per le piastrine ce n'è molto poca e ce n'è un estremo bisogno, soprattutto quando un proprio familiare sta male, ci si trova a dover fare una chiamata generale a tutte le proprie conoscenze e spesso non basta, per cui sarebbe molto bello poter sensibilizzare questo tipo di donazione che, ripeto, oggi lo faccio in maniera costante, mi rendo conto che è nata per una necessità, per aiutare la mamma, adesso è diventato un appuntamento fisso per Daniele. Professor Grassini, vuole fare un commento rapidissimo all'invito di Daniele a sottolineare l'importanza della donazione di piastrine? Queste difficoltà che l'amico donatore rappresenta in questo momento effettivamente sono quasi ampiamente, direi quasi totalmente superate, perché in ogni servizio trasfusionale esiste una base dati, un database, come si dice, di donatori che sono idonei alla donazione di piastrine mediante aferesi, e direi che praticamente in tutta Italia questo problema che il donatore stava in qualche modo rappresentando è in corso di superamento totale, insomma c'è una grande disponibilità, una grande crescita culturale nei donatori, come quel donatore che ha parlato ora, che ha una consapevolezza molto profonda delle necessità, di cui mi complimento molto, però lo vorrei rassicurare perché molto è stato fatto. Essere e benessere. Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per ottenere riconoscenza, ma questo segreto di desiderio guasta i loro doni. E ci sono quelli che hanno poco e danno molto. Sono quelli che credono nella vita e nella generosità della vita e il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e quella gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con dolore. E questo dolore è il loro battesimo. È bene dare quanto si è richiesti, ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti, si comprendono i bisogni degli altri. Tutto ciò che hai, un giorno o l'altro, sarà dato via. Perciò, da adesso, così che la stagione del dare sia la tua, non quella dei tuoi eredi. Khalil Gibran. Vogliamo dedicare questa poesia a voi volontari che ci state scrivendo all'800 24 00 24, a chi ci sta pensando. Dottoressa Torti, prima di salutarla, donare fa bene anche dal punto di vista psicologico, regala benessere emotivo, me lo stanno scrivendo davvero in tanti. Assolutamente sì, io mi soffermo su una parola della lettura che è ricompensa, gioia come ricompensa. È vero, succede proprio così a livello cerebrale, no? Quindi l'azione del dare, del curare, pensiamo una mamma con un figlio, proprio genera delle sensazioni piacevoli fisicamente, quindi è proprio una ricompensa vera e propria, al di là poi del fatto che ci siano tutti gli aspetti emotivi, no? Che colorano ancora di più questa azione. Grazie dottoressa Torti per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. 800 24 00 24, proviamo insieme a trovare una frase che racconti l'importanza della donazione. L'abbiamo lanciata anche su Facebook, molti di voi ci stanno rispondendo. Leggo quella di Annalisa, leggerò poi nel corso della trasmissione le mail e gli sms che mi arriveranno. Mezz'ora del tuo tempo può valere una vita per qualcun altro. Professor Grassini. Quanto tempo dobbiamo dedicare alla donazione? Un prelievo. Quanto tempo ci sottrae dalla nostra quotidianità indaffarata? Ma dipende naturalmente dal servizio trasfusionale o dall'unità di raccolta dove il donatore accede. Diciamo che mediamente alla prima volta in cui si dona, gli accertamenti clinici che si fanno sul donatore sono un momentino più impegnativi, quindi possiamo pensare ad un tempo medio da un'ora a due ore, ma basalmente nei servizi trasfusionali più efficienti il tempo di donazione si aggira intorno ad un'ora, tra l'accesso, cioè perché ci sono tutta una serie di passaggi, no, clinici, certo, medici da fare, il tempo del prelievo, il tempo dell'osservazione dopo la donazione, durante il quale il donatore fa una colazione, assume liquidi per integrare anche un po' di liquidi che sono ovviamente sottratti, per cui diciamo che un'ora e mezzo di norma è il tempo standard a cui il donatore può pensare per donare, per fare una donazione. Professor Grassini, voglio leggere il messaggio di Claudio da Vicenza che ci scrive: donare il sangue è il volontariato per pigri, stai lì sdraiato, ti coccolano, ti visitano, ti ringraziano tutti, ti danno pure da mangiare, per me è l'ideale, ho donato per 10 anni, ora riprendo dopo pausa per sottopeso. Professor Grassini, bisogna pesare almeno 50 kg, vero? Almeno 50 kg, essere in buona salute per donare, avere stili di vita sani e soprattutto non praticare comportamenti a rischio, soprattutto dal punto di vista sessuale, che possono mettere il donatore a rischio di contrarre delle malattie infettive trasmissibili di cui abbiamo parlato prima, come l'epatite B, l'epatite C e l'HIV. Quindi il fatto di dover in qualche misura adeguarsi a stili di vita sani è un valore aggiunto incredibile, formidabile per le persone che si approcciano alla donazione del sangue. E a proposito di donazione, c'è una donazione che possono fare le mamme: il sangue cordonale contiene delle cellule preziosissime. Ne parliamo col dottor Paolo Rebulla, direttore della Milano Cord Blood Bank, la banca del sangue placentare della regione Lombardia. Dottore, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Sì. Dottore, ci spiega che cosa ha di speciale, di diverso il sangue cordonale rispetto al sangue che circola nel nostro corpo? Sì, il sangue cordonale, che poi prende il nome dalla placenta, perché il sangue che rimane nella placenta al termine del parto, sono due sinonimi, sì, quindi può essere prelevato dai vasi sanguigni del cordone ombelicale, ha una particolarità molto importante rispetto al sangue dell'adulto, sangue circolante, perché nel momento dello stress del parto numerose cellule staminali che di solito abitano o risiedono nelle ossa si riversano nel torrente circolatorio del bambino. In passato questo sangue veniva gettato insieme alla placenta al termine, sì, del parto, ma negli anni 70 si è scoperto che queste cellule possono essere utilizzate per fare un trapianto, per curare gravi malattie come le leucemie, i linfomi, talassemie e cose del genere. Quindi dagli anni 90 del secolo scorso si è cominciato a raccogliere sistematicamente questo sangue, che viene bancato in strutture pubbliche che lo conservano e lo rendono disponibile per i malati che ne hanno bisogno. Quindi una riserva molto importante che voi invitate a donare, ma dottor Rebulla, intendiamoci bene sui termini, sul tipo di donazione che voi sostenete. Noi sosteniamo, coerentemente a questa idea, anche il Ministero della Salute appoggia questa idea, la donazione solidaristica, cioè quella donazione che mette a disposizione della collettività il sangue placentare, perché va sottolineato che la comunicazione sulle scoperte delle cellule staminali ha creato un'aspettativa eccessiva oggi rispetto alle potenzialità terapeutiche di queste cellule, che sono certe e importanti per alcune gravi malattie come le leucemie, i linfomi, malattie del sangue, ma non sono ancora disponibili trattamenti, sì, validati per altre importanti malattie. Quindi è molto più importante oggi mettere a disposizione questa risorsa, che può essere utilizzata oggi a beneficio di tutti, anziché conservarsela privatamente per una ipotesi futura che oggi non è dimostrata. Dottor Rebulla, si rivolga ad una mamma. Cara mamma, ti dico che? Che abbiamo in Italia circa 30.000 donazioni che sono state raccolte in 20 anni. Sono tante, ma queste donazioni sono servite finora a realizzare oltre 1.300 trapianti in Italia e nel resto del mondo. Ma per offrire ai malati una terapia ottimale dobbiamo triplicare questo inventario. Non vogliamo certo metterci altri 40 anni. Grazie dottor Rebulla per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Molti dubbi, posso donare, sono sottopeso, ho, soffro di ipertensione. Professor Grazzini, ci sono tante persone che si autoescludono. Mi piacerebbe avere la possibilità nei prossimi giorni, o decideremo un giorno insieme per rispondere proprio magari anche sul nostro profilo Facebook alle domande degli ascoltatori di Essere Benessere. Tanti dubbi, proviamo a risponderne ad alcuni in diretta. 800 24 00 24, abbiamo Anna da Roma, buongiorno. Buongiorno, prima di tutto saluto lei signora Nicoletta. Grazie. Il dottor Grazzini, al quale vorrei rivolgere la mia domanda. Io sono, dunque, ho rilevato attraverso le analisi del sangue che sono portatrice, cioè esiste il marker dell'epatite A. Peraltro io sono nata in una città di mare della Puglia, sì, dove è praticamente endemico, il 90% della popolazione ha questo marker. Sì. Io che potrei donare, non l'ho mai fatto fino adesso per timore di essere di danno da altri. Posso farlo, sì o no? Professor Grazzini. Capito, lei ha gli anticorpi, sì, contro l'epatite A. Sì. Assolutamente sì, perché l'epatite A è un'epatite che quando superata lascia solamente, come diciamo comunemente, una cicatrice immunologica. Lei ha solo gli anticorpi che denunciano che ha avuto probabilmente anche in forma inapparente questa epatite, che è un'epatite che di norma decorre in forma benigna, e in questo caso non vi sono assolutamente controindicazioni a donare il sangue. Buongiorno al dottor Aldo Zino Caligaris, presidente FIDAS. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta Carbone, buongiorno a lei. Sono molto contenta che lei sia in linea con noi. Adesso ho in linea Vilma, che ci chiama da Mantova, e poi con il dottor Zino Caligaris e il professor Grazzini avremo modo di rispondere a tutti i vostri dubbi e darvi delle indicazioni. Obiettivo anche di questa puntata non è solamente ringraziare i donatori e chiedere ai donatori di imprestarci la loro esperienza, di coinvolgere sempre più persone a diventarlo, ma dottor Zino Caligaris, se noi vogliamo anche contribuire per far crescere la cultura della donazione tra i giovani, lo faremo nel corso di questa trasmissione, ma intanto Vilma, buongiorno. Buongiorno e grazie per la trasmissione bellissima che fate, e ringrazio tutti e saluto tutti. Allora, io ho 53 anni, sono 10 anni e passo che faccio la donatrice di sangue. Sì? Più che altro di plasma, perché avendo il ferro basso, così. Esatto, anch'io. Lo faccio al plasma. Anche lei fa, sì, la donatrice, sì, allora? Sì. Bene. E niente, volevo chiedere, siccome mi avvicino, ho 53 anni, mi avvicino alla menopausa, oppure ci sono già, insomma, sì, così volevo sapere dal medico, dal dottore, per quanto tempo una donna poteva donare, se c'erano controindicazioni, quante donazioni, anche di piastrine, così. Grazie, dottor Caligaris, Zino Caligaris, la facciamo subito lavorare. Sì, allora ringrazio e saluto la donatrice, che ovviamente già dà un grosso contributo con le sue donazioni in aferesi, e posso dirle che in termini di donazione anche di sangue intero, la donna che termina il suo periodo fertile viene equiparata all'uomo, proprio perché c'è, viene meno quel depauperamento del ferro fisiologico con il flusso mensile, e di conseguenza la valutazione per l'idoneità alla donazione, sempre secondo i parametri di emoglobina e di ferro del donatore, vengono poi messi in considerazione per effettuare o donazioni di sangue intero o donazioni di plasma o di multicomponenti o di piastrine. Ovviamente i criteri poi per stabilire la frequenza tra una donazione e l'altra sono quelli, sì, stabiliti per legge. Essere e benessere. Ragazzi, c'è un'emergenza. Ho ricevuto un messaggio dal centro trasfusionale. C'è bisogno immediato di sangue del gruppo 0 negativo per un ragazzo affetto da leucemia acuta. Come sapete, io sono un donatore abituale. Se qualcuno di voi volesse venire... Voi andate. Anzi, più siamo e meglio è. Noi veniamo, professore. Noi chi? Noi. Io ho paura, però vengo lo stesso. Buongiorno. Hai già spiegato tutto ai ragazzi? È assolutamente indolore. E poi vi fa stare molto meglio perché fate del bene agli altri. Questa clip che abbiamo appena ascoltato è tratta da Rosso Vivo, un cortometraggio dedicato alla promozione della donazione di sangue, prodotto dalla Fondazione Il Sangue con la collaborazione dell'AIL, dell'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus e dell'Associazione Culturale Melting Pot. Vi invito a visionarlo nella versione integrale su YouTube. Dottor Zino Caligaris, il nostro paese sta invecchiando e la donazione invece è una, tra virgolette, cosa da giovani. Come faremo? Dunque, questi sono degli allarmi che dobbiamo tenere in assoluta considerazione. L'invecchiamento della popolazione e soprattutto una forte riduzione delle fasce di età giovanili, comprese tra i 18 e i 35 anni, ci impongono, per poter assicurare sempre una terapia trasfusionale sicura e disponibile per gli ammalati, soprattutto per quegli ammalati che vanno diciamo nella fascia di età superiore ai 60-65 anni e che oggi godono fortunatamente dei vantaggi della medicina e della chirurgia, cose che non erano attuate negli anni passati, per poter far ciò noi ovviamente dobbiamo incrementare e diffondere la cultura della donazione soprattutto nelle popolazioni giovani, a partire dall'età scolare e in tutti i momenti aggregativi che possono ovviamente coinvolgere i ragazzi e sensibilizzarli a questo gesto indispensabile per poter garantire una terapia che oggi non si produce in laboratorio e nelle industrie farmaceutiche. Voglio leggervi alcuni slogan, li abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di scriverceli o di raccontarceli all'800 24 00 24 su Facebook. Nino ha scritto: dai una goccia della tua vita a chi ancora sete di vivere. Claudia ha scritto: donare è un gesto d'amore per la vita di altri e un gesto d'amore per se stessi. Claudia ancora: donare inietta la tua vita di gratitudine e di riconoscimento. Professor Grazzini, ci sono però delle persone a cui non viene più permesso di donare, non solo per i limiti di età, e anche sui limiti di età molti ascoltatori mi chiedono: ma se una persona ha 66 anni e sta benissimo, perché impedirgli di donare? Professore. Ma dunque, fare tutto l'elenco delle motivazioni per cui un donatore deve essere sospeso temporaneamente o definitivamente dalla donazione sarebbe lunghissimo. Certo. Evidentemente quello che possiamo dire è che questo tipo di giudizio viene fatto in modo estremamente accurato, sia da una parte per tutelare la salute del donatore e dall'altro per tutelare la sicurezza del ricevente. In linea generale, comunque, chi è in buona salute, chi non ha una malattia importante, chi conduce uno stile di vita sano, come dicevamo, è comunque ammessa la donazione. Anche ci sono persone, per esempio, che hanno l'ipertensione, che dicono: ah, io non posso donare perché sono iperteso. Questo non è vero, perché se l'ipertensione è un'ipertensione ben controllata, non grave, e anche in trattamento farmacologico, è assolutamente possibile donare, come così pure forme molto miti di diabete iniziale possono anche essi accedere alla donazione del sangue, possono accedere alla donazione del sangue ad esempio pazienti che hanno forme di celiachia, no? Sì. Persone che hanno forme di celiachia purché non abbiano manifestazioni cliniche importanti. Ho visto che recentemente addirittura in alcuni servizi trasfusionali si offrono le colazioni senza glutine per i donatori che hanno una forma di celiachia modesta e che comunque può consentire. Quindi ci sono tante motivazioni e è molto importante che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, dove i medici sono addestrati, specializzati in questo, facciano una buona selezione del donatore, ripeto, per la salute del donatore e per la sicurezza del ricevente. Dottor Ozino Caligaris, ho aperto la trasmissione con il claim della campagna FIDAS, che a me è piaciuto tantissimo, e quello adesso a cui aggiungerei invece una, sempre della vostra campagna, vi invito a visitarla sul sito FIDAS, un braccio per donare, due bracciate per unire. Sì, racconta molto bene la filosofia del donatore. Sì, intanto saluto Giuliano e devo dire che mi fa piacere che lei abbia colto questo messaggio, che è il messaggio che promuove le iniziative estive che noi facciamo soprattutto con i donatori giovani, cioè di promuovere la donazione attraverso dei momenti di attività sportiva. In particolare faccio riferimento alla traversata a nuoto del donatore dello Stretto di Messina e alla 24 ore di nuoto che si terrà nelle Terme di Caldiero a Verona. Sono due manifestazioni dove appunto persone sane, giovani, saranno testimonial anonimi di questo gesto di volontariato e dove le due braccia che servono per nuotare, per unire una sponda dello stretto con l'altra, idealmente uniscono il donatore al ricevente, uniscono con un braccio per donare la persona che è in buona salute e che può esprimere la propria generosità attraverso un gesto di volontariato alla persona che ha bisogno di una terapia e attende questa terapia. E quindi ripetiamo, ci vuole più coraggio a trovare una scusa che a donare sangue, come recita il claim della campagna FIDAS, e poi appoggiatevi, professor Grassini, possiamo dire ai nostri ascoltatori che mi stanno chiedendo ma come faccio, dove dono, ci sono tanti modi per avvicinarsi al mondo della donazione, basta rivolgersi negli ospedali, nei centri, nelle associazioni. Professor Grassini. Sì, per donare... ci si rivolge agli ospedali dove sono operanti i servizi trasfusionali, ci si può rivolgere molto facilmente alle associazioni di volontariato che le abbiamo già elencate. Tutte? Tutte, Avis, Fidas, Fratres, Croce Rossa ed altre. E si può consultare il sito web del Centro Nazionale Sangue, ecco, www.centronazionalesangue.it, dove ci sono tutte queste informazioni. Trovate tutto. Grazie al professor Grassini, grazie al dottor Aldo Zino Caligaris, grazie a voi. Noi ci sentiamo lunedì.